la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori della 24, 16:31 primi in diretta da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia in questo venerdì 20 di novembre e vado subito al punto ricordandovi il numero di telefono per intervenire 800 24 00 24 e per gli sms 349 238 6666. Preciso, a scanso di ogni equivoco, che il tema di cui ci occupiamo oggi non è collegato né intenzionalmente né inintenzionalmente, lo sottolineo con tono un po' scandito, a nessuna intenzione dichiarata o inintenzionale, ripeto, di voler offendere le prerogative della libertà di ciascuno in materia di fede, di culto, di ottemperanza rispetto alla propria religione, alle proprie convinzioni sociali, comportamentali, eccetera, eccetera. Non parliamo di una questione che ha a che fare in nessun modo con la discriminazione di nessun tipo, ma ci poniamo invece un altro problema. E anzi, a me il problema è venuto da pormelo perché stamattina ho letto su un giornale italiano, nel caso specifico il Gazzettino di Venezia, che uno dei magistrati italiani che io stimo di più, il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, lo ha sollevato esplicitamente. Lui, di che cosa parliamo oggi? Di capire in realtà che cosa prevedono le norme vigenti nel nostro paese, primo, e secondo, di capire se siano giuste o meno o se sono da ritoccare, e su questo raccolgo anche volentieri la vostra opinione se volete intervenire, su un punto delicato perché potrebbe prestarsi a equivoci. Il punto delicato è il velo integrale delle donne musulmane, cioè quello che si chiama burqa o niqab. È più facile imbattersi in Italia in donne che indossino il niqab rispetto al burqa afghano o persiano. Il niqab comunque è un velo che copre integralmente e copre integralmente in realtà anche il volto, diverso dal velo e dai diversi tipi di velo che coprono buona parte della testa e sicuramente sempre i capelli, talvolta anche la parte bassa del volto, ma che comunque rendono, come il hijab per capirci, che rendono identificabile i tratti di chi lo indossa. Stiamo parlando del velo, delle diverse tipologie a seconda delle diverse aree, dei paesi musulmani, che copre integralmente i tratti del volto, tranne una fessura per gli occhi o per la bocca, quindi niqab o burqa per capirci. La domanda è: nel nostro ordinamento in realtà è legittimo andare per le vie pubbliche, nelle piazze eccetera, con il velo integrale niqab o burqa, oppure no, secondo voi? E qui partiamo da una semplice domanda, cioè le leggi italiane che cosa prevedono? A. B. Nel caso sono da cambiare? Allora, io mi sono procurato tutte le norme e le sentenze e alcune delle puntuali sentenze emesse dai diversi organi della giurisdizione italiane e ho un'impressione che ci sia un problema tra una definizione generale che è affermata nella legge Reale Mancino, quindi la legge 15 del 22 maggio 1975, che vi leggo, cari ascoltatori, per capire di che cosa stiamo parlando. Ecco, l'articolo 5, la legge Reale Mancino afferma che è vietato l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. E poi aggiunge: e in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle a carattere sportivo che tale uso comportino. È chiaro che se partecipate a un torneo di scherma avrete la maschera protettiva. Ma nella prima frase di questa parte dell'articolo 5 che vi ho letto c'è scritto che è vietato l'uso di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico. Parrebbe, leggendo questo articolo della legge reale, che esiste già una norma nel nostro ordinamento per la quale il niqab o il burka, e quindi un velo integrale che copre il volto e impedisce il riconoscimento in luogo pubblico, cioè strade e piazze, non sia possibile, non sia legittimo nel nostro paese. È così davvero? La risposta è no, in realtà, perché ci sono più sentenze, ne richiamo solo una, in questo caso una sentenza del Consiglio di Stato, la 307 del 2008, che dice: il nostro ordinamento consente che una persona indossi il velo per motivi religiosi o culturali, le esigenze di pubblica sicurezza sono soddisfatte dal divieto di utilizzo in occasione di manifestazioni e dall'obbligo per tale persona di sottoporsi all'identificazione e alla rimozione del velo ove necessario. Allora, questa precisazione sembra dire che non c'è il divieto al velo integrale in luogo pubblico per strada, c'è sempre in manifestazioni pubbliche, e però se una persona, se una donna musulmana lo indossa, basta che se obbligata a identificarsi, quindi libera di camminare col velo integrale, ma se obbligata o richiesta ad identificarsi, allora deve rimuoverlo per consentire l'identificazione. Come vedete, apparentemente sono da una parte una norma e dall'altra l'interpretazione giurisprudenziale, però che dicono cose diverse. Allora, io mi limito, spero di non aver sbagliato tecnicamente, a richiamare questa legge e questa sentenza per darvi il quadro, ecco, sintetico, perché ci sono poi tante altre sentenze in materia, di come stanno le cose in Italia. Non è chiaro, almeno ai miei occhi non è chiaro. Però stamattina Carlo Nordio, procuratore aggiunto di Venezia, ha proposto di intervenire, perché dice: secondo me qui c'è un problema. Allora, lo abbiamo collegato con noi, lo ringrazio di essere con noi, procuratore. Ci spieghi un pochino, perché non ha letto il Gazzettino, cioè la stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori, che cosa ha detto e se le norme italiane sono chiare. A me non sembrano chiare alla luce delle sentenze, e in quel caso secondo lei cosa bisognerebbe fare e perché? Beh, innanzitutto grazie, buonasera a tutti gli amici. Premetto che le norme italiane da sempre non brillano per chiarezza e molto spesso si contraddicono tra di loro. Già. Non c'è nulla di più opinabile in Italia del diritto e soprattutto del diritto penale e amministrativo. Questa è anche la ragione per la quale vi sono sentenze diverse tra di loro e processi che durano all'infinito. In ogni caso, lei ha fatto una panoramica estremamente precisa, citando la legge del 75 e anche quelle sentenze che la interpretano. Da cosa deriva l'incertezza? L'incertezza deriva dal fatto che quella legge dice che è vietato girare mascherati salvo giustificato motivo. Allora, i giustificati motivi possono essere molti, per esempio una persona trapiantata gira con la mascherina perché non vuole essere contaminata. Oppure una persona con gravi difetti fisici, uno sfregio per esempio, può anche coprire il volto per ragioni di pudore. In questo ambito del giustificato motivo si può anche far rientrare la ragione religiosa. Aspetti, a questo proposito io nella pila qua di sentenze ce n'ho proprio una, che infatti questa è Procura di Torino giugno 2012, il PM del caso si chiama Paolo Borgna, che archivia una questione sollevata a seguito di un esposto di un cittadino di Chivasso nei confronti di una donna di origine egiziana, e si trattava proprio del fatto che andasse in giro con il niqab, quindi integralmente velata, perché in quel caso, dice la Procura di Torino, non c'è violazione della legge reale, perché la donna che lo indossa, sto leggendo testualmente, in ossequio, secondo un'interpretazione diffusa, ai principi della religione islamica, in osservanza dei diritti costituzionali tutelati di piena libertà di manifestare in qualsiasi forma, anche attraverso la propria immagine esteriore, la propria fede e la propria appartenenza religiosa, e per questo, decide il PM, non può essere vietato alla signora in questione di indossare il niqab e burka per strada. Quindi, come diceva lei, c'è anche una tutela costituzionale di questo. Ma infatti, secondo me, non è questa la norma da invocare. Ripeto, in Italia esistono varie norme, una delle ragioni, ripeto, della incertezza del nostro diritto è che ci sono molte norme. E c'è anche un motivo: questo articolo 5 della legge reale configura un reato contravvenzionale, ma un reato. ed effettivamente sarebbe purtroppo gravoso, direi forse anche iniquo, incriminare una persona che magari arriva in buona fede in Italia perché nel suo paese è normale girare con il volto coperto e poi scopre che qui invece deve finire, se non in prigione, almeno in tribunale. No, c'è un'altra norma invece molto più antica e però è stata molte volte riadattata e aggiornata, ed è l'articolo 85 della legge, il testo unico della legge di pubblica sicurezza, che dice chiaro e tondo, al comma primo, che non si può comparire mascherati in luogo pubblico, tout court. Questo non è un reato, è un illecito amministrativo. Però è un illecito. Certo, è un illecito e va impedito. Anche questa legge, anche questo è stato a suo tempo, diciamo così, più o meno interpretato, però secondo me è estremamente chiaro ed è estremamente vincolante. Del resto c'è anche da dire che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, che poi è stata aggiornata a Strasburgo nel 94 e con l'entrata in vigore nel 98, dice chiaro e tondo che i principi, per carità, sacri, inalienabili, irrinunciabili della libertà religiosa, devono comunque essere coordinati e conciliati con quelli che sono i principi di ordine pubblico, di sicurezza e anche di buon costume. Chiunque conosca un po' la storia delle religioni sa che ci sono stati, almeno nei tempi passati, delle religioni che consentivano o addirittura imponevano l'esibizione di parti del corpo che oggi sarebbe impensabile portare in pubblico, magari in processione, per propiziarsi, come facevano una volta durante le feste orfiche, Dioniso o altri dei fertili. Non so se ho spiegato abbastanza, certo, il concetto. Bene, tutto questo risponde, ripeto, a una necessità di conciliare un altro la libertà religiosa, ma dall'altro l'ordine pubblico e il buon costume. L'ordine pubblico, secondo me, anche alla luce di quanto sta avvenendo all'epoca, impone non di criminalizzare come colui che commette un reato, ma semplicemente di far applicare una sanzione amministrativa, cioè in ogni caso un obbligo di comportamento, di girare a volto scoperto a fini proprio di ordine pubblico. D'altro canto, e anche qui se la ragione e la razionalità hanno un loro significato, poniamoci nelle condizioni di una persona, lei ha citato giustamente il Chador, che effettivamente in Italia si vede poco, però esiste invece il niqab, che è quel velo che copre tutto il volto fino agli occhi, cioè è una vera e propria maschera. A Milano, nel triangolo della moda, quando arrivano le spedizioni del paese arabo, si vede un mucchio di signore completamente velate. Esatto, allora lei si domandi la differenza tra uno che entra in banca con la maschera e passamontagna che copre gli occhi e uno che entra, o una che entra in banca con il volto velato appunto da questo niqab. Non vedo quale sia razionalmente la differenza. Poi da questo a parlare di discriminazione religiosa o addirittura di islamofobia, ovviamente ne corre, secondo me fa parte di una polemica sterile che è tra l'altro assolutamente irragionevole. No, certo, però io lo sapevo che, guardi, le faccio una domanda proprio per porre il problema concreto, perché in realtà di fronte al timore di essere identificati, se richiesti, se convinti di poter chiedere a una donna islamica di rendersi manifesta come autori e perpetratori di un atto di discriminazione, i più degli operatori di pubblico servizio non lo fanno, anche perché molti sanno che ci sono queste sentenze difformi in materia. Allora le faccio una domanda che ci viene da un altro ascoltatore, ci ha appena mandato un sms, Salvatore da Como, che ringrazio per aver fatto questa domanda. Salvatore dice, domanda al procuratore Nordio: io faccio l'autista per un'azienda pubblica di Como, le faccio la domanda, posso non farli salire se sono coperti da un velo integrale, poiché tra l'altro sono anche responsabile del mezzo pubblico e di chi vi è a bordo, oppure devo far finta di non vedere come mi capita di fare, perché a questa domanda la risposta precisa non c'è mai? Che cosa rispondiamo a Salvatore da Como? Allora, innanzitutto io rispondo che se noi vivessimo in uno stato normale, dove vige la certezza del diritto, potrei dare una risposta seria, poiché, come ho detto all'inizio, non è così. Il nostro cancro mortale è quello di avere 250.000 leggi. Lei ha già avuto la cortesia di chiamarmi a tempo addietro, sì, sulla corruzione. Ho già detto che la madre delle nostre, della corruzione è essenzialmente la proliferazione normativa che consente a chi ha in mano uno straccio di potere un arbitrio assoluto, cioè di fare quello che vuole, perché le leggi sono numerose e contraddittorie. Bene, rispondo che non lo so, non potrei dargli una risposta certa. Povero Salvatore. Ogni al di qua del fiume potrebbe trovare un questore o un procuratore della Repubblica che interpreti la legge in un modo e al di là delle autorità che la interpretano in un altro. Per come la vedo io, ma è una mia opinione di modesto tecnico del diritto, lui ha il diritto e addirittura il dovere, ecco, di non farla salire. Anche secondo perché me, no? È sicuramente una violazione dell'articolo 85 del testo di pubblica sicurezza, esattamente come potrebbe non far salire, dovrebbe, anzi, avrebbe il dovere di non far salire un uomo incappucciato. Esattamente. Ma io mi domando, con tutto il rispetto per tutte le religioni che, come diceva Gibbon, ai tempi dell'impero romano erano per il popolo tutte vere, per il saggio tutte false e per il politico tutte utili, con tutto il rispetto, ripeto, alle stesse religioni. Se domani una religione dicesse che impone alle donne e anche agli uomini di girare incappucciati col passamontagna, noi, con tutto il rispetto per le religioni, dovremmo invece far prevalere le ragioni di ordine pubblico. Allora, io lo sapevo che oggi sarebbe stato istruttivo per far capire a chi ci ascolta che non si può, nel mondo in cui viviamo e con quello che succede, ma si può vivere in una situazione in cui ciò che dice una legge noi non sappiamo se davvero si deve applicare oppure no, e non lo sanno gli operatori di pubblico servizio con quello che sta succedendo da anni, non solo adesso, Parigi e così via. Questa è la fotografia della condizione in cui viviamo. Un minuto di informazione sulle strade, poi torniamo. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, stiamo parlando di un punto connesso, insomma, ai problemi dell'ordine pubblico rispetto all'obbligo di velo, diversamente interpretato, ma da molte donne musulmane adottate integralmente, soprattutto il velo integrale, cioè il niqab, il burka, che rende indistinguibili i tratti del volto. Abbiamo richiamato articolo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che dice che in Italia no, in luogo pubblico non si può andare travisati e mascherati. E la stessa cosa dice la legge reale Mancino. Tuttavia molte sentenze in nome della tutela della piena libertà religiosa hanno interpretato questo obbligo dicendo no, basta che il velo venga rimosso in caso di richiesta di obbligo di identificazione, per il resto è un'espressione della libertà. E allora, a seconda di chi è il giudice e procuratore, c'è un'interpretazione diversa. Ma a questo punto chiedo a caro Nordio, a Venezia, quindi gli operatori di pubblico servizio e le forze dell'ordine possono contare sul fatto che se vedono un niqab o un burka e a quel punto chiedono che venga rimosso per la strada di Venezia, lei è favorevole al fatto che hanno fatto bene a farlo, è così? Beh, certamente sì, quantomeno ai fini dell'identificazione. Non c'è dubbio che se una persona, una donna, gira con il volto coperto, quantomeno sia giusto e indiscusso il dovere e il diritto delle forze dell'ordine di identificarla, questo è ovvio, e se si rifiutasse commetterebbe un reato. Esatto. Altra cosa, secondo step, diciamo, è vedere se abbia commesso l'illecito amministrativo. Terzo quesito, terzo step, diciamo ancora più grave, è vedere se abbia commesso il reato di cui è la legge reale. Allora, per come la vedo io, certezza assoluta che la polizia ha il diritto e il dovere di chiamare in parte, in disparte, queste persone, ovviamente rispettando il pudore, quindi sì, anche certo, la dignità, quindi la polizia femminile, quello che è, e identificarle. Secondo me, ma è una mia opinione personale, e ripeto, so benissimo che ci sono delle opinioni contrarie, questa persona ha anche commesso l'illecito amministrativo e non può girare, non può circolare con il volto coperto. Terza ipotesi minoritaria, e su questo anch'io io stesso sono dubbioso, se abbia commesso il reato, ripeto, la sanzione illecito amministrativo è cosa diversa dal reato, certo, se abbia commesso il reato della legge reale. Anche questo, ripeto, è più opinabile. Forse sarebbe il caso di pensare a una norma, sì, o no? Sì, a questo punto, come spesso accade in Italia, ma basti pensare da ultimo alla legge Severino, recentissima, che è già stata interpretata in 100 modi, forse sarebbe il caso o di dare un'interpretazione autentica o di fare una legge più chiara, almeno... E direi anche urgente. Pensiamo tra Giubileo, Carnevale di Venezia, le situazioni nelle quali troveremo migliaia e migliaia di persone nelle piazze, non so, le forze dell'ordine possono fare tutto, ma i miracoli no, questo è il punto. Quindi di fronte a un travisamento diffuso, Io direi sì, potessi dare un suggerimento al governo, direi di chiarirla questa questione prima che accada l'irreparabile, io non penso, peraltro, che il terrorista sia quello o quella che gira in burca, al contrario, non è il vero terrorista come le Brigate Rosse 30 anni fa, gira vestito da persona laica, per bene, irriconoscibile anche nella sua fede, che sia musulmana, cristiana. Però è vero, banalmente, che qualunque cosa avvenga, se poi delle telecamere hanno ripreso e bisogna ricostruire chi c'era, dove, eccetera, in questo caso è così. Allora, io ringrazio il procuratore Nordio, per Carlo Nordio, per la chiarezza con cui civilmente interviene su un tema che divide. Informo tutti i nostri ascoltatori che nel frattempo le agenzie informano da Parigi, la fonte viene da Parigi, un ministro maliano del Mali, citato dai media francesi, avrebbe riferito che gli ostaggi all'hotel di Son Blue di Bamako, sapete il sequestro nato da stamattina, sono stati tutti liberati dalle forze dell'ordine. Non c'è un bilancio per il momento ancora di eventuali feriti o morti, eccetera, eccetera, però la notizia sarebbe che sono stati tutti liberati. Continuate su Radio 24, mi raccomando, domani dalle 10 alle 12 i conti della Belva, torna in compagnia dei conti della Belva a parlare un po' di economia, speriamo, se fino a domani mattina non succedono nuove cose di terrorismo. A domani mattina!